super sorpresa puntata di The Night Podcast. Era un botto, veramente un botto, che non facevo più interviste, ma l'occasione era ghiotta con dei vecchi amici, ovvero in Motel Transilvania, che ho qui nella persona di chi sei te? Toxi, mi sembra di conoscerti. Cantante e non più batterista, per fortuna. E non più batterista degli Adanza, batterista appena passato a prendere una giacca nel silenzio più totale. E siamo qui a Rendox per presentare il vostro disco, esatto. Generation Lost. Allora, io premetto, se qualcuno è appassionato di questo genere, io ne vengo da tutt'altro genere, quindi non mi permetto di dare qualsivoglia giudizio, perché sarebbe inopportuno. Ti dico solo però che quando l'ho ascoltato l'ho trovato molto orecchiabile, nel senso buono del termine, ed è piaciuto un botto anche a mia madre. Perfetto. No, che ha detto, di solito metti della roba inascoltabile, a sto giro hai messo una cosa che si può ascoltare. È la prova della trasversalità del nostro pubblico. Esatto, quindi io lo prenderei come assolutamente come un complimento. Se la musica è con qualcuno è sempre ottimo. E prima di poi lasciarti un po' di spazio per parlare dell'album in sé, di quello che avete fatto, avrei una domanda da fare. Visto che ho visto proprio la vostra parabola fin dall'inizio, ho avuto questo piacere di poterlo fare, e vi ho visto provare e riuscire, non riuscire, però comunque sempre continuare, tant'è vero che siete quelli dei gruppi che conosco, comunque delle cose che mi sento di dire più, che siano Man on a Mission. Ed ho sempre avuto questa impressione, e specialmente ultimamente ancora di più ho questa cosa di quanto avete focus, di quanto abbiate volontà di perorare questa cosa. E mi sembra che, pur non conoscendo l'ambiente, io sbircio le vostre cose, seguo da lontano, sì, le vostre cose, e mi sembra che stiate riuscendo in questa cosa un pochino, cioè a muovervi, a farvi un nome e tutto. Diciamo che abbiamo mantenuto la stessa attitudine indipendente degli inizi, ma cercando di farci spazio in un mercato che di indipendente non ha più nulla. Mm-hmm. E però nonostante diverse offerte di collaborazioni con etichette anche all'estero, tutte le proposte andavano in qualche modo a intaccare la nostra identità e il nostro modo di esprimerci, il nostro modo di creare il contenuto e comunque in qualche modo il nostro modo di, appunto, dare una trasversalità a quello che vogliamo esprimere. E quindi se la scelta era snaturare il messaggio, snaturare noi stessi, snaturare anche semplicemente tutto quello che riguarda l'aspetto visual o l'aspetto della proposta in sé, e comunque rimanere noi stessi, ma più o meno cercando di targetizzare, no? Di dare un focus senza sparare nella mischia, ma appunto mantenendo questa cosa, no? Questa, voglio comunicarti questo, voglio farlo in questo modo, allora abbiamo deciso di facciamo meno ma lo facciamo vero. Può essere una cosa furba, perché ti permette di darti dei tempi, delle modalità, dei modus operandi diversi. Può essere controproducente, perché dall'altra parte non hai i contatti, le possibilità e i tappeti spianati che ti darebbe chiaramente una realtà consolidata, quella un'etichetta, un'agenzia e così via. Mm-hmm. Ed è una cosa, ecco, questa è una cosa che ci tengo tanto a dire. L'unica cosa che abbiamo mantenuto, sempre per ritornare al discorso delle nostre origini, le manteniamo, è che noi non lavoriamo più con Undead Artist, che è stata la prima realtà discografica che ha creduto in noi dal giorno zero, ma la persona che si nasconde dietro ad Undead Artist è comunque parte del nostro organico, non come appunto Undead Artist, ma come Johnny Rose, appunto come persona, e tutto quello che è la distribuzione digitale, tutto la cura lui, perché lui ha creduto a noi quando le cose, diciamo, non funzionavano. È giusto che adesso noi crediamo in lui quando le cose in qualche modo funzionano. Sì, che poi io questa cosa qua che non funzionavano, in realtà in realtà in quello che facevate sono sempre funzionate, non per, non te lo dico perché non te lo dico in piaggeria di d'amicizia, però però intendo proprio quando non è ancora uscito nulla, quando è uscita la prima demo registrata in garage da me, cioè quindi quando proprio non avevamo fatto una data in un ristorante e lui ha detto sì, ve lo produco, sì, ci metto il mio marchio, sì, faccio in modo che qualcuno lo conosca fuori dall'Italia. E lui è sempre stato lì, cioè, e ancora adesso è venuto a sentirci per la prima volta live in quasi 10 anni che lo conosco, e a Ude la settimana scorsa è stato bello poterlo ringraziare di persone su un palco, ecco. Chiaro. Beh, è bello che appunto effettivamente anch'io ho l'idea, tu sai da dove ne vengo, io ne vengo dai giri proprio più ortodossi del DIY, diciamo, e quindi sì, una sorta di patinatura nel modo di presentarsi, non vostro, ma dell'ambiente che adesso, dell'ecosistema musicale che state frequentando, un po' si sente. Io non mi fermo a quello, certo. Chiaro, non mi interessa, però appunto so, come dicevi, che ci sono, come dire, sono sempre indizi di alcune di alcune modus operandi, che non vuol dire essere meno veri. Non dire gestiamo sempre le nostre grafiche, gestiamo sempre i nostri contenuti. Esatto. Paradossalmente, per quanto i video siano video professionali, tutto quanto, sono comunque girati da una persona che dieci anni fa faceva parte della scena metal core genovese, che quindi è un amico da una vita. La differenza è che con un amico con delle potenzialità molto molto alte e professionali, quindi onestamente è tutto rimasto nel cerchio sostanzialmente, e chi ci faceva le maglie, le grafiche, tutto quanto collabora ancora con noi, chi ci girava i video adesso è un amico da una vita, e chi sta dietro tutta la parte digitale è sempre parte di noi. L'unica cosa che abbiamo deciso di cambiare, appunto, il modo di diciamo la qualità del presentare le cose e la scelta di invece affidarci a un professionista del settore per registrare il disco, perché è stupido da dirsi, ma che sia industrial metal, che sia death metal, che sia street punk, che sia qualsiasi cosa, le band, prendo l'esempio dei Booz & Glory, che produzione hanno dietro? Assolutamente. E i video sono fantastici, ma li fa Frank, il batterista. Quindi non è che se tu una cosa la presenti in modo professionale, pulita, accattivante, anche mainstream se vogliamo, allora vuol dire che di base non c'è niente. Perché vedi tanta roba che con la scusa del me lo autoproduco non ti dice niente, non ti trasmette niente e soprattutto prende le distanze da tutto quello che doveva essere un ecosistema di una sottocultura. Noi, benché in qualche modo ci siamo ritrovati messi in un po' da parte dall'ambiente di cui facevamo parte, quell'attitudine abbiamo mantenuta, quindi siamo usciti in modo passivo da realtà che parlavano di aggregazione e abbiamo mantenuto l'aggregazione con persone che in qualche modo non avevano niente da prendere in cambio, ed è secondo me la cosa migliore, no? Capisci veramente che l'aggregazione in realtà è un modo bello per dire branco, e a me dire branco non è mai fregato un cazzo. Beh, e su questa bella andiamo ad ascoltare. Allora, non abbiamo scelto i pezzi, quindi diciamo andiamo ad ascoltare un pezzo, li sceglierò, mi è stata data questa possibilità di sceglierli io, però solo dopo averli ascoltati live, ed è stata data questa imposizione, chiamiamola imposizione, quindi non sappiamo che pezzo, ovviamente ci sarà nella pagina del podcast la tracklist, e quindi degnatevi se volete sapere che pezzo è. We'll be right back. eccoci ritornati. Dunque, avevo un'altra curiosità. Ho visto che appunto siete aumentati rispetto alla, oltre a esserci la Titti, giusto? Sì. La batterista, avete anche chi vi fa la parte elettronica e... E in realtà allora è una sorta di periodo di transizione, perché il nostro batterista, questa, lo scoop in anteprima proprio, lui si sta concentrando molto per seguire il suo sogno che è quello dell'insegnamento. E questa cosa chiaramente potrebbe metterlo in difficoltà per tante possibilità di tour, di trasferte e quant'altro. E quindi questa cosa qua nel tempo ci ha fatto arrivare al punto che in qualche modo nel futuro sarebbe stato opportuno trovare una persona che potesse andare a sostituirlo. E chiaramente questa è una sostituzione sofferta, perché Motel Transilvania è stato e sarà sempre Leo alla batteria. Però comunque adesso Tiziana, questa grandissima musicista, batterista e persona che è entrata nel progetto, sta seguendo tutto quello che è, diciamo, il nostro percorso all'estero, le nostre trasferte, e in Italia, laddove Leo ha la possibilità di suonare con noi, lei si dedica comunque a mandare tutto quello che sono le backing track, tutto quello che magari è anche la parte percussiva, piuttosto che anche solo un po' di cacciara dal palco, no? E quindi sì, è un il progetto si è allargato momentaneamente, ma per poi ritornare a quella che è la formazione originale, che non è più ovviamente il trio delle origini, il power trio, dove dovevo smontarmi sia la batteria che il microfono, ma per fortuna Occhi smonta la batteria per se stesso. Ma è molto bello quello che dici, che hai appena detto, cioè il modo in cui l'hai detto. Voi state investendo molto in questa cosa qua, una persona all'interno di questo gruppo, che è importante, assolutamente, dice io ho altre esigenze, e voi l'accettate questa cosa. Cioè, beh... No, non è scontata. Torna al discorso di prima. No, ma certo, no, però io volevo rimarcarla sta cosa, perché a volte i buoni pensieri si fa un attimo a farlo, poi ti entri in contatto con la realtà delle cose e può esserci contrasto per due cause giuste, certo. Come potrebbe essere stato in un caso come questo. E c'è la grande serenità con cui mi hai parlato di sta cosa, la trovo molto bella, non mi stupisce, perché appunto ti conosco, insomma ci conosciamo, più o meno come siamo come persone lo sappiamo, certo. Però è sempre bello sentirlo. Diciamo che la botta iniziale, più che incazzatura, è stata dispiacere, perché comunque lui è una persona estremamente affidabile, ma è anche un compagnone di merende come pochi. Quindi, sai, all'inizio ti spiazza, perché comunque metti delle fondamenta importanti per un progetto che ha un peso non da poco, soprattutto a livello di scommessa, perché comunque è stata una grande scommessa sia a livello di energie che economica. E quindi quando vedi che in qualche modo il bilanciamento comincia un attimino ad ondolare, e quindi devi trovare un attimo il modo per assestare tutto, e dici, mi adesso cosa faccio? Sai quando un po' come ti lasci, quando ti lasci una persona che hai amato tantissimo, no? E tu all'inizio dici, e ora? Cioè il primo pensiero è ora? Poi magari nutrirà ancora, è quello che vuoi, però in questo caso è solo un e ora? E invece lui, devo essere, questa qua è la cosa che secondo me gli fa ulteriore onore, come se non ne avesse già abbastanza, è stato lui che si è attivato per trovare Tiziana. È stato lui che è andato un pochettino a colmare quella mancanza che avrebbe portato la sua assenza, ecco. Quindi non è una cosa che avrebbero fatto tutti, magari tanti avrebbero detto, sapete che c'è, io ho altro, ciao. Sì, anche perché posso dire da persona esterna, comunque un desiderio. È un'istanza lecita la sua, voglia. Quindi questo. Infatti suoneremo adesso a gennaio in Svizzera con delle band molto molto molto grosse, cioè, a partire dai 69 Eyes, che è una band storica di Helsinki, piuttosto che col progetto del cantante Queensryche. E Leo ha avuto proprio la cosa di, raga, vorrei far parte della cosa, e Leo farà parte della serata. Cioè, laddove che potrà essere parte del nostro entourage, chiamiamolo così, è chiaro che non gli verrà mai detto di no. Cioè, non esiste. Ecco, com'è, parlando un po' di un'altra cosa, abituate, com'è la, visto che avete partecipato più di un festival Jagro? E essendo che non sono, non ne so niente di festival, com'è, qual è la differenza tra come si vivono i festival? Allora, cioè, diciamo che c'è un divario tra l'ambiente di cui, dal quale arriviamo a quelli in cui siamo ora. Sì. E lì, nei festival di adesso, c'è il macigno del tempo da rispettare. Alle 16.47 parte il live, tu alle 16.47 devi essere sul palco e partire a fare la prima nota. Esatto. I tempi di cambio palco sono serratissimi, ma la differenza è che buona parte delle volte è dei tecnici forniti dal festival che in qualche modo sanno cosa di fare. E sono festival in cui ognuno di noi ha un proprio tecnico, vedi a Malta, e altri festival in cui sono magari due o tre tecnici da palco che ti dicono di cosa ti serve e quant'altro. La cosa stressante, tra virgolette, è che tu devi avere un'attrezzatura tale che ti permette di essere il più veloce possibile. Cioè, dire cosa ti serve, mi serve questo e ho finito. E noi adesso abbiamo la fortuna di avere due persone che ci seguono e si occupano praticamente di tutto. Cioè, dal guidare a portare scatoloni, portare roba sul palco, togliere roba dal palco. E questo è una roba che, per chi arriva da invece contesti molto più underground, è impensabile. Cioè, diciamo, cazzo c'entra, magari un'ora di cambio palco. Lì invece ti rendi conto che anche un rispetto delle altre band, capito? E tu magari dopo di te hai una band che erano i tuoi eroi fino a un anno fa, e prima invece c'è una band che è appena iniziato, e tu devi capire che quella band che è appena iniziato devi in qualche modo dare anche una mano a tirare via un'asta da un palco, e piuttosto che quello dopo dire vabbè, faccio in modo che tu possa fare la tua esibizione, perché se in qualche modo io mi sono affezionato a te, perché hai sempre avuto la possibilità di essere in condizione di farlo. No, è pedagogico, diciamo, esatto. ha un risvolto pedagogico. Sì, in qualche modo sì. E stiamo notando che, a parte veramente pochi, ma veramente pochissimi casi, ritrovi davanti a te persone che prima erano veramente un qualcosa di inarrivabile, come invece persone che hanno anche qualcosa da insegnarti, ma proprio a livello umano. Non è sempre così, perché tanti comunque chiaramente hanno questa luce intorno che li rende inarrivabili, però poi magari è una persona di tutta la band, e gli altri invece ti ritrovi a far festa nel backstage, quindi è proprio una cosa. Anche come PR, secondo me i festival sono molto importanti. Sono essenziali perché ti ritrovi a contatto con tantissime persone, con centinaia di persone, migliaia di persone, e che in qualche modo vogliono capire, soprattutto se sei nuovo, perché sei lì. Ti racconto una stupidaggine. Abbiamo suonato in un festival a luglio chiamato Burning Pants, è un festival sex positive della comunità tedesca, ma dove arriva gente da tutta Europa. E un ragazzo è arrivato al merchandising e dicendomi: devo dirti una cosa, ma non ti incazzare, dimmi. E mi stavo già incazzando, ovviamente. Io non vi conoscevo, e quando avete suonato la volta scorsa, mentre state per iniziare, stavo andando a farmi la doccia nel camping. Poi avete iniziato e sono rimasto lì, perché mi avete preso dalle prime note. E io ovviamente, perché sono un cazzone sostanzialmente, ho chiamato il suo ragazzo e ho detto: vieni qua un attimino. Allora, ti chiedo scusa per il fatto che ha saltato la doccia, ma la prossima volta fagli fare la doccia prima. E comunque così, no? Crei questa cosa qua che ti fa capire che la gente che ti dedica del tempo e magari non era lì per te, poi alla fine può diventare parte di tutto un mondo nuovo. Stiamo conoscendo veramente tante persone fantastiche che magari non ci immaginavamo manco di avere nel nostro percorso, e questa roba è veramente bella. Cioè, fuori noi stiamo vedendo tanto che la gara di chi fa di più, chi spende di più, chi diciamo ostenta di più, non esiste. Esiste tra chi ha veramente da fare quello di lavoro, e allora è ovvio che non si può fermare a dire faccio questo. Ma nel livello medio è proprio una roba di: ah, che bella sta roba, ma come l'hai fatta? Ah, ma mi dai il contatto? Perché sì, è proprio una cosa bella. Negli ultimi festival abbiamo iniziato a creare collaborazioni con tre band, cioè tre festival, tre band con cui collaborare, ed è una roba secondo me molto bella, perché ritorna al principio di quello che facevamo, no? Della realtà in cui arrivavamo. E quindi sì, l'essere PR con le band, con le persone, con gli organizzatori è importante, ma se non sei tanto superficiale, dire lo faccio per quello, per avere qualcosa in cambio. Devi farlo perché hai il piacere di interagire con la gente, perché altrimenti è una cosa di plastica. Condividere. Esatto, esatto. Cioè, abbiamo un pezzo, si chiama Plastic World, che parla proprio di questo, di queste realtà fittizie di plastica. Cioè, apro e chiudo una parentesi, guardo. Questo pezzo l'ho scritto completamente durante il periodo pre-Covid, nel periodo del Covid e quello che è successo dopo. All'inizio c'era questa cosa di voglio evadere, voglio uscire, voglio fare, voglio incontrare, ho bisogno di stare con questa persona, ho bisogno di stare con i miei amici, fare feste e tutto. E poi alla fine, quando le cose si erano di nuovo aperte, hai visto persone divise da pareri diversi, da semplicemente aver capito che stare insieme è un'abitudine, una routine. Quindi una volta che non ti ho più visto per 2 mesi, passi 2 mesi non me ne frega più un cazzo di te. E quindi ci si trova spiazzati, cioè quasi più soli, più spiazzati e in qualche modo più, come si dice, dispersi, no? Da quello che è stato poi la chiusura forzata vera e propria. Ed è una roba che in qualche modo, secondo me, doveva insegnare tanto, doveva dar tanto, invece ho visto gente completamente dividersi per stronzate, quali punti di vista diversi, spazio e tempo che hanno creato un divario pesante quanto un macigno e così via. E quindi no, se dovesse una cosa fatta per ottenere qualcosa indietro, non l'ho mai fatto, non penso di iniziare adesso, che ho già, diciamo, la mia strada in qualche modo segnata a livello di persona. Beh, io voglio chiudere questo spezzone, quello che mi dici, se mi permetti una citazione da un personaggio sicuramente che è una persona, un artista che sicuramente conosce anche chi ascolterà, che è Genesis P. Aldrich, dei Throbbing Gristle, che lui diceva sempre: se qualcuno si deve ricordare di te sarà per qualcosa che gli hai dato e non per qualcosa che ti sei preso. Esatto. E quindi ci andiamo a ascoltare un altro pezzo, potrebbe essere Plastic World, ma I want it. siamo giunti dopo tutte queste amabili chiacchiere, visto che appunto stiamo parlando del vostro disco in uscita oggi, è giunto il momento di parlare del disco. Come ho detto all'inizio, non è, diciamo, materia di mia competenza, quindi non mi voglio lanciare in a dire cose su materie che non conosco. Quindi lascio a te quello che vuoi raccontare di questo disco, sia musicalmente che non, quello che vuoi te. Ma inizierò a dirti forse il motivo del cambio di genere, perché è una roba che tutti si chiedono, quindi ti risparmio questo fardello. Diciamo che durante appunto tutto quello che è stato il Covid, ognuno di noi si è ritrovato in casa, no? A riprendere un po' in mano quelli che erano gli ascolti, no? Tutto quello che era il retaggio, tutto il background culturale, musicale di ognuno di noi. Quindi ognuno di noi scriveva, suonava, faceva, imbregava, e quando c'è stata l'occasione di rivederci in studio, ognuno di noi ha portato qualcosa, no? Chi ha portato un testo, chi un groove, chi dei riff. Fish ha scritto tantissimo durante il Covid a livello di riff, Tiziano uguale, cioè hanno portato veramente tanto materiale. Ci siamo resi conto che però il modo di suonare tutto quel materiale messo insieme aveva ovviamente un impatto diverso a livello sonoro. E allo stesso modo tutta la parte comunicativa del disco era molto più pesante, molto più intima, a tratti molto più seria rispetto a quello che era il percorso vecchio. Non che il disco vecchio parlasse di stronzate, il pezzo che parla dello squalo in realtà parla di suicidio. Cioè l'ignoto che ti prende da sotto e tu sei l'unico che in qualche modo vedi cosa sta succedendo, parla di quello, benché la gente ci ballasse sopra. Però in questo disco abbiamo voluto evitare di girarci troppo intorno, no? Volevamo che fosse molto comunicativo, sempre aperto alle interpretazioni, ma comunque molto molto molto pregno di messaggi, di cose. Quindi siamo ritrovati là, abbiamo cominciato a scrivere, abbiamo detto, boh ragazzi, però come, cioè, alziamo il tiro e capiamo come, dove, perché vogliamo suonare. E abbiamo comunque cercato di non orientare il sound verso a nuovi mercati, perché direi una stronzata, però abbiamo cercato di dare un approccio strutturale, musicale, quant'altro, che non si limitasse, diciamo, al contesto, alla nicchia della quale facciamo parte. E quindi abbiamo detto, ok, vogliamo buttarci del metal, che ci arrivi del metal, vogliamo metterci qualcosa di ballabile, vai col ballabile, vogliamo mettere delle parti molto molto silenziose, d'atmosfera, quasi ambient, con qualcosa di raccontato sotto, facciamolo. E quindi è stato veramente, a differenza, diciamo, del primo periodo, che comunque è un periodo molto più scanzonato, ognuno di noi ha voluto portare veramente se stesso, cioè ci senti il background di Fish con questi cosi super martellati, ci senti le parti molto aperte di chitarra di Tiziano, e il mio storytelling. Io ho sempre avuto un feticcio per lo storytelling, proprio dal cantautorato a italiano, piuttosto che comunque a tutto quello che era la parte più folk americana. Infatti una frase, secondo me, che ti spiega bene questo disco, è una frase di Tom Waits che dice amo le belle melodie che mi raccontano cose terribili. Questo è un po' il modo di leggere questo disco. E quindi niente, sostanzialmente il disco è un disco per tutti. È un disco per tutti, perché comunque te lo puoi ascoltare per il puro piacere di ascoltare, far casino, ballare e quant'altro. O è un disco che ti puoi fermare lì, ascoltare quello che ti sto dicendo e magari anche rifletterci, no? Dire, ah, lo sto vivendo anch'io, oppure ah, l'ho provato anch'io. E quindi è tutto lì. Abbiamo cercato di in questo caso parli in maniera più commerciale, di confezionare un prodotto. Io più che commerciale, più pop. No, questo è proprio un discorso di, perché usare proprio il termine prodotto, e quando okay. Dici prodotto e parli hip hop non arriva la cosa, okay. E invece dico commerciale, almeno mettere mai avanti, di confezionare un prodotto che in qualche... Forse è colpa mia che con commerciale lo vedo è un qualche retaggio mio, mi scusi. No, ma lo vivevo anch'io prima di vedere quanto investimento c'è dietro un disco. Un disco non autoprodotto. Quindi se tu investi quei soldi, non li vuoi rivedere indietro, ma vuoi che in qualche modo arrivino da qualche parte con un senso. Cioè, io se devo investire 20.000 euro per un progetto sperimentale deathcore, ska core con influenze drone, sarei un pazzo, cioè o ho un sacco di soldi o da buttare o sarei scemo. No, no, devono in qualche modo l'investimento, se non in maniera economica, ci siamo pagati un deve viaggio. Tornare. Io la vedo così, ci siamo pagati un viaggio che può essere più o meno lungo, però è un viaggio, cioè riuscire a arrivare in posti nuovi, conoscere persone nuove, vivere esperienze nuove, quello per me equivale a dire vado 2 mesi in America. Io vado ogni tanto a vedere un posto nuovo, con persone nuove, con contesti nuovi. Quindi quando ti parlo di commerciale è quello, non ci guadagniamo un cazzo, perché non ci guadagniamo un cazzo, ma ci guadagniamo tantissimo a livello di bagaglio umano e culturale. Questa è una cosa, secondo me, che ripaga tanto. Tra l'altro, ve lo dico anche per esperienza mia, che con le mie cose anche io ho avuto la fortuna di viaggiare tanto, vedere tante situazioni, quindi ho fatto anch'io le mie esperienze e ti comprendo bene il valore. È un'attitudine che secondo me sarebbe da perorare, cioè, perché le esperienze portano consapevolezza e la consapevolezza rende persone migliori. Assolutamente. E quindi il discorso che fai lo trovo totalmente ragionevole, perché è una cosa che penso anch'io e che vivo anch'io in un'altra maniera, ma vivo anch'io. Cioè, alla fine ognuno ha deciso su cosa puntare, no? C'è chi punta sempre il telefono nuovo, il vestito di marca, qualsiasi cosa per divertirsi un po' di più nel weekend, eccetera. Noi abbiamo detto no, io voglio fare qualcosa che invece possa essere diluito nel tempo, perché devo divertirmi nel weekend quando posso rischiare che questo divertimento, questa, passami il termine, questo far festa, può essere invece una cosa prolungata. E soprattutto che sia, se posso aggiungere, sono sicuro che sarei d'accordo, un qualcosa che veramente sia quello che voglio io. Certo. Non quello che scelgo tra quello che mi viene offerto. Se avessi voluto far così avremmo detto sì alla prima, alla seconda, alla terza etichetta che ci aveva proposto di collaborare. Però io voglio sapere chi ho davanti, voglio sapere per chi suono, voglio sapere con chi suono e voglio sapere in quale pubblico mi trovo davanti. Se io so che sposi una causa che non fa parte di me, io continuo sempre a dirti di no. E invece ci sono persone che si riempiono la bocca di ideali, che invece quando gli offri uno zero in più sono le prime, sono lì. Io non ci suono se non è merito coglione, non esiste. O comunque sì, farò come ho fatto in una data locale, che suono per te istituzione, ma poi ti insulto dal palco. Cioè, mi sembra sincero quella volta lì. C'ero, mi sembra che c'ero. Quindi, mentre la gente diceva suonano là, si suona là per dargli del coglione coi suoi soldi. E bene, dai, se non vuoi dire altro sul disco, direi che un po' tutto. Quindi. Allora, mettiamo ancora un brano e poi facciamo l'ultimo pezzo. Se vuoi dire qualcosa, o se mi viene in mente a me anche di chiedere ulteriormente qualcosa. We'll be right back. l'ultimo giro di Giostra con Toxi. Beh, poi ultimo giro di Giostra la notte giovane noi no, ma la notte sì, esatto. Bene, abbiamo parlato un po' di come gira, un po' del disco. Io ho un'ultima domanda. Quando smettete di suonare? No, io non vedo l'ora, perché dovete sapere, questa volta, che l'ultima volta che hanno suonato qua in giro è stata in concomitanza di fatto che lì vicino suonava uno dei miei gruppi preferiti di sempre. Gliel'ho anche detto: raga, avesse suonato un altro gruppo, e per gli se qualcuno ascolta punk hardcore, sto parlando dei Frammenti. E gli ho detto: raga, suonare i Frammenti, fosse stato un altro gruppo, ti sanno che noi... il biglietto per venirci a salutare, già fatto. Esatto, io sono andato, ho camallato stravolentieri qualche un po' di strumentazione, ho pagato il biglietto, e poi una certa che suonavano dei prima di voi delle persone improponibili da qualsiasi punto di vista. È vero. E a un certo punto gli ho detto: raga, mi dispiace, devo andare, ed è andata così. Dovevi farti cacciare, meglio andare via con onore. Perché... e quindi è andata così, finalmente invece stasera mi sono già sistemato per tornare indietro, tutto quanto, sono a posto. Ma detto questo, una domanda personale. Il fatto di appunto iniziare, perché era l'idea che ho io, come dicevo all'inizio, di riuscire un po' il giusto sapore che aspettavate. In che senso? Cioè, riuscire, il fatto che si concretizzi dietro un lavoro che avete fatto, e vedi che un po', perché siete all'inizio sicuramente di questa cosa, hai il sapore che mentre eravate lì in saletta vi immaginavate? Allora, ha un doppio aspetto, come tutto. È bello perché ti veramente vivi a contatto con gente che fino ad allora te la guardavi su YouTube e andavi a pagare dei gran soldi per vederli, perché comunque adesso abbiamo la cosa che suoniamo in tanti festival che hanno dei prezzi per noi in Italia proibitivi. Cioè, abbiamo suonato in un contesto sabato, e l'ingresso è a 56 euro, tre band, e non c'è niente di enorme, cioè parliamo comunque di band medio-alte, e quindi per noi è strano, perché comunque di ste band qua dici, bah, figo, bello, prima me li ho visti in un festival, adesso sono con loro a mangiare. E è bello perché appunto riesci veramente a viverti tutta questa cosa che fino ad allora sembrava un po' una serie televisiva, no? Che vedi giusto da spettatore. Diciamo che però la parte in cui ti gasi è esattamente come quando suoni nel locale piccolissimo in zona. Hai la gente davanti che stia 5, 10, 1000, 2000, che sorride, fa casino, magari sa le tue canzoni. È sempre quello, cioè io continuo a vomitare prima di suonare per l'ansia, e continuo a dire grazie 45. Aspetta, che tra l'altro io e te condividiamo il fatto che non abbiamo il blocco del diaframma, esatto. E vomitiamo a comando. Esatto. Quindi è un attimo vomitare. Vomito qualcuno, meglio di quanto canto. Se qualcuno all'ascolto ha questa particolarità che abbiamo io e lui, sa di quello che parliamo, che diamo un colpo di tosse dato male, vomitiamo. Skill. No, però minchiata a parte, sì, hai la stessa roba, cioè arriviamo comunque da lì, quindi, capito, ti godi il fatto che siano molte più persone, ma io non riesco, quando magari uno va a comprare un disco, a non dirgli quelle 4, 5, 10 volte grazie, continuiamo a fare la riverenza, cioè a me fa strano vedere che c'è gente in giro per l'Europa che sta facendo il nostro logo addosso, una che si è tatuata la mia firma sul fianco, è follia, cioè per me quelle forme follia. Sì, io non... l'ultima e tra l'altro poveretta. Io quella firma l'avevo improvvisata la sera prima a casa del nostro batterista, io non avevo un autografo da fare, qui si è messi là a fare un po' di prove, io ho ancora una pagina dove facevo le prove di sta firma, gli abbiamo andata e questa si è tatuata, mi spiace, è una roba da TSO, poverina. Esatto. Roba da TSO, esatto, però sì, la cosa è quella, cioè ci godiamo il fatto che non siamo considerati, benché siamo gli ultimi arrivati a tutti gli effetti, non ci siamo quasi mai ritrovati, se non in Italia, ad aprire un festival, a essere tra le prime posizioni di un festival, siamo sempre nella fascia o intermedia avanzata o comunque poco prima degli headliner, e questa roba è allucinante perché comunque siamo una band nuova, è uscito il disco neanche un mese fa online. E tra l'altro, se mi posso permettere, provenendo da un paese che non ha grandissima tradizione, esatto, in quel genere lì, perché se tu mi dicessi, che ne so, viene la band death metal norvegese, dice beh, se sono la Norvegia, partono dalla Norvegia, vuol dire che tanto grammi non saranno, esatto, visto che è il loro genere di punta, esatto. E invece in Italia non, sicuramente non lo è, quindi ancora di più è figo, mi sembra, è molto figo, perché comunque una particolarità. Sì, fai conto che il primo concerto veramente grosso che abbiamo fatto è stato al Dark Malta, e ci siamo ritrovati poco prima di band come Project Pitchfork e Dego Noise, che stiamo parlando di band che arrivano dagli anni 80, cioè i Project Pitchfork equivalgono ai Megadeth dell'industrial, ok, quindi, quindi no, queste robe qua sono assurde per noi, cioè non hanno, non è una roba che assimiliamo così bene, ma perché siamo persone che arrivano comunque da una sottocultura, cioè arriviamo veramente da una realtà do it yourself, e tutta la booking è fatta in casa, cioè sono io che perdo nottate intere a mandare messaggi a tutti. Poi in Italia ti fanno dei gran viso, perché ti fanno dei gran viso, all'estero ti rispondono, e se gli piaci. E l'aneddoto del Burning Pants di luglio è stato che loro avevano chiuso il bill, avevano 26 band nel bill. Io gli ho mandato l'email con il press kit, con il video che è uscito all'epoca, che è appunto Generation Lost, e il loro promoter ha detto: raga, il bill è chiuso, ma io vi voglio a tutti i costi. Il festival iniziava alle 11 del mattino, e mi hanno detto boh, figata, un rimborso anche a livello economico importante, e alberghi pagati, cioè una cosa che per noi veramente sì, fatta come Dio comanda. Io quando vedo che nell'albergo metto una bottiglietta d'acqua, ancora mi emoziono e mando la foto a mia madre dicendo abbiamo l'acqua gratis, quindi questo è il livello, no? Eppure ci siamo ritrovati a suonare nel palco principale, anche se le band locali e tedesche, anche un po' più grosse, erano nel palco piccolino, eravamo nel palco principale, due band prima dell'headliner, cioè quindi abbiamo suonato a pomeriggio inoltrato, e loro hanno detto vi rivolgiamo l'anno prossimo, uno slot prestigioso, sì, e noi vogliamo l'anno prossimo in una posizione ancora più alta. Detto, è una roba che boh, è figa, cioè ti ripaga a livello di umore, di ok, forse in qualche modo la cosa è arrivata, poi non sai se sia arrivata per la parte di fronzoli o per il contenuto, però è arrivata, una volta che sei là devono ascoltarla, non è che possono guardare quanto sei bello nel video. Quindi anche perché diciamolo com'è, se guardano il video ne perdete. Diciamo che la nostra dimensione è sempre stata e sarà sempre quella live. Certo. Cioè, è un po' il cavallo di Troia che facevamo quando vendevamo in giro il tributo ai Misfits. I locali ci compravano come tributo ai Misfits e invece li facevano le nostre canzoni. Cioè, mi spiace per tutti i locali che hanno comprato una cosa e li facevamo le nostre, ma in qualche modo live vogliamo esprimere noi stessi, non qualcos'altro. Bene, Tox, io sono contento stasera di averti rivisto dopo tanto tempo, di aver fatto questa intervista. Anche per me. E niente, ti ringrazio, ce la torniamo su, vediamo gli altri che non siano tutti ubriachi o anche spero peggio. No. E se qualcuno ascolta questa intervista, vi ringrazio di essere arrivati fin qua. Grazie a tutti. E vi salutiamo. Ciao ciao.